Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Buongiorno e benvenuti a Magazine 24, l'appuntamento che Radio 24 dedica a riviste, periodici e settimanali che trovate in edicola in questo weekend. Benvenuti da Marco Bellinazzo in questo sabato. Cercando un po' di temi e sfogliando i settimanali, mi sono accorto che c'è un fil rouge che lega tutti gli approfondimenti di questo fine agosto. Non è un tema leggero, ed è un tema che anzi spesso fa arrabbiare gli italiani, almeno gli italiani onesti, è il tema dell'evasione fiscale e delle tasse o supertasse che molti saranno costretti a pagare al ritorno dalle ferie in seguito ai provvedimenti che il governo ha dovuto adottare per far fronte alla crisi finanziaria e alle difficoltà evidentemente delle casse pubbliche. Se ne occupano, come dicevo, un po' tutti i settimanali. Io vorrei iniziare a parlarne da una curiosa intervista che Vanity Fair ha dedicato a Johannes Buckler, che non è un reale contribuente italiano evidentemente, ma è lo pseudonimo che ha utilizzato un contribuente in una serie di lettere al Corriere della Sera, denunciando tutta una serie di raggiri e di trucchi che nel suo lavoro quotidiano ha visto compiere ai contribuenti per non pagare le tasse. Una intervista di Ferdinando Cotugno e rivela evidentemente tutto lo scalpore che vivere con la propria professione a contatto con chi evade, mentre invece le tasse le si pagano regolarmente, desta nei cittadini onesti. Sa qual è la cosa peggiore di parlare con gli evasori? Rivela appunto Johannes Buckler, questo celebre bandito tedesco, un Robin Hood del Settecento. Non solo ti derubano, rivela appunto, ma ti fanno anche sentire un pirla quando dici che tu le tasse le paghi. Sono il cancro di questo paese. Sono anni, rivela appunto Johannes Buckler, che mi districo ogni giorno con le dichiarazioni dei redditi e sono per la maggior parte false, in forma anonima, di nascosto perfino a mia moglie, a parlare al telefono. È il punto il misterioso Johannes Buckler, scrive Ferdinando Cotugno, il cittadino esperto di tasse che ha preso carta e penna e ha già scritto 4 lettere al Corriere della Sera per spiegare come funziona il fisco in Italia visto da dentro. Lo pseudonimo che ha scelto come firma è il nome di un eroe tedesco del Settecento, una sorta di Robin Hood della Renania che toglieva ai ricchi per dare ai contadini. Uno che oggi forse farebbe il cacciatore di evasori fiscali. E chissà che pure il nostro Buckler, anche se lui non l'ammetterà mai, non sia davvero parte di questo mestiere. Rivela ancora Buckler che ho avuto modo di verificare come ci siano spesso raggiri anche da parte di insospettabili, e cita tutta una serie di dati che lui dice di aver raccolto qua e là per il web, ma che forse appunto sono frutto di un'attività diretta nell'accertamento dell'evasione. E su alcuni aspetti dell'attuale lotta all'evasione, come gli spot, che forse qualcuno di voi avrà visto, invece dimostra di essere abbastanza critico. Dice: quando ho visto quella pubblicità non ci potevo credere. A chi è venuto in mente di rappresentare l'evasore come un tossico con la barba incolta? Di evasori ne ho conosciuti tanti e le dico che si radono tutti i giorni, girano con il SUV e frequentano gente per bene. L'attenzione che ha ricevuto dopo le sue lettere è segno di un cambiamento possibile, gli chiede ancora Ferdinando Cotugno a proposito delle molte mail che il fustigatore degli evasori ha ricevuto. E lui scrive: mi hanno scritto centinaia, manager, chirurghi, gente che si è ammazzata di lavoro e che è stanca di essere presa in giro. Un'Italia che non si vede mai perché il ceto medio ha pensato troppo a lavorare e non ha capito che serviva anche una rappresentanza politica. Mi dicono che pagano le tasse e che vorrebbero una politica più attenta. Mi dicono anche che vorrebbero volentieri pagare anche il contributo di solidarietà, a prescindere dalla soglia dei 90.000 euro, se solo non fosse imposto con questi metodi e si aiutasse davvero qualcuno. E dall'anonimo fustigatore degli evasori di cui ci ha parlato Vanity Fair passiamo all'inchiesta di copertina invece di Panorama, che è dedicata alla caccia al ricco. Scrivono nel loro articolo Guido Fontanelli e Damiano Iovino: l'esperienza quotidiana di un qualsiasi cittadino italiano sembra confermare l'impressione di abitare in un paese pieno di benestanti, dove circolano 2,6 milioni di auto con oltre 2.000 di cilindrata, che si piazza al quinto posto per vendite di BMW, al sesto posto per consumo di champagne e nei cui mari navigano 100.000 barche da oltre 10 metri battenti il tricolore. Possibile che case di lusso, belle auto e ville vista mare siano tutte di quei 72.000 che dichiarano più di 200.000 euro di reddito? È ovvio che non è così. Infatti, in un'indagine sulla ricchezza nel mondo del Credit Suisse svela che l'Italia ci sarebbero 1,4 milioni di persone con un patrimonio complessivo di oltre $1 milione, pari a 695 mila euro, immobili compresi. Se poi escludiamo le case, i dati forniti dalle società di private banking, quelle che gestiscono i soldi dei benestanti, dicono che in Italia ci sarebbero 600-700 mila famiglie con un patrimonio finanziario da 500 mila euro in su. E uno studio della Capgemini Merrill Lynch indica in 170.000 il numero di italiani con un gruzzolo di investimenti finanziari superiore al 1 milione di euro. La inchiesta di Panorama, la storia di copertina con tutta una serie di articoli, punta molto, insomma, sulle cifre, sui numeri della ricchezza o presunta ricchezza esistente in Italia, che invece cozzano con il numero dei contribuenti ricchi che invece emergono dalle dichiarazioni dei redditi. Infatti, guardando a quelle del 2010, si vede come siano appena 500.000 le persone che dichiarano più di 90.000 euro e tra i 40 e 90.000 euro invece ci sono appena 2,5 milioni di contribuenti su 40 milioni, insomma, di cittadini che dichiarano ogni anno al fisco i propri redditi o dovrebbero dichiararli. Nell'ambito delle storie che ci racconta Panorama c'è anche la confessione, anche qui un imprenditore, un altro anonimo, che in questo caso si mette dalla parte opposta rispetto a quella del Robin Hood di cui ci ha parlato Vanity Fair, ed è un imprenditore che rivela tutte le strategie che usa per non pagare le tasse. In particolare, appunto, consiglia di rinunciare allo stipendio fisso da dipendente e alle tutele annesse e di avviare un'attività che renda qualcosa, perché le società di comodo, sempre in rosso, create per scaricare i costi, non si possono più fare con gli studi di settore che possono, appunto, beccare il malintenzionato. Questo imprenditore invece lavora a un'attività che evidentemente gli rende, ma in più riesce a scaricare parte dell'immobile, le spese per l'auto, la benzina, il telefono, i computer, i ristoranti, i viaggi, gli alberghi e perfino il pedaggio dell'autostrada, per cui consiglia, insomma, tutti i titolari delle partite IVA italiane, speriamo che siano consigli non accolti, di utilizzare questi stratagemmi per pagare meno imposte, senza però esagerare. Almeno un consiglio di moderazione la dà. Per quelli che non pagano le tasse, per i ricchi che trovano sempre il modo di evitare la scure del fisco, ce ne sono tanti altri che invece, sempre intervistati da Panorama, ma in questa volta non in forma anonima, invece sono disponibili a pagare le imposte. In particolare Guido Fontanelli intervista Mario Moretti Polegato, fondatore della Geox e sesto uomo più ricco d'Italia, con una fortuna che il periodico americano Forbes ha stimato in 2,3 miliardi. In particolare, Polegato si dice disponibile a pagare il contributo di solidarietà, ma purché ci sia una chiara valenza, una finalità sociale per questo contributo. Gli si chiede, appunto, nell'intervista se, come ha proposto Luca Cordero di Montezemolo, i più ricchi debbano essere molto più disponibili degli altri a pagare le imposte e le sovrattasse. Ma certo, sono disposto a dare qualcosa in via straordinaria, ammette Polegato, così come è pronto a farlo qualsiasi italiano se gli viene spiegata bene la situazione. In cambio però il governo mi deve dare segnali veri di cambiamento che riguardano la politica e i giovani. Nella politica ci sono troppa burocrazia, inefficienza e nepotismo, E la soluzione è eliminare i politici di professione, suggerisce ancora Polegato, imponendo solo due mandati agli eletti come succede con i sindaci. Per quanto riguarda i giovani, bisogna introdurre un sistema che consenta alle imprese di assumere ragazzi tra i 20 e i 27 anni, pagando i contributi solo in piccola parte. Avere troppi giovani disoccupati è un grande problema. Senza lavoro non c'è democrazia. C'è poi, ancora negli articoli di Panorama, un interessante quadro su quelle che sono invece gli stipendi pagati alle autorità, alle varie autorità di vigilanza introdotte per garantire l'equilibrio e la sicurezza nei vari mercati, e anche qui si parla appunto di stipendi altissimi che dovrebbero essere rivisti in chiave europea, quindi abbassate secondo le indicazioni del governo. Tra questi spiccano per esempio gli oltre 500 mila euro, che è l'indennità lorda per Paolo Bortoni, che è presidente dell'autorità per l'energia, i 475 mila di Catricalà, garante del mercato della concorrenza, i 246 mila di Guido Rasi, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, oppure i 300 mila dell'Agenzia del Territorio di Gabriella Alemanno. Tutti stipendi, come detto, che dovranno essere ridimensionati e che, di cui Panorama fornisce una dettagliata mappa. Per chi fosse interessato potrà andarsela a leggere. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24 da Marco Bellinazzo. Abbiamo parlato nella prima parte di evasione, di lotta all'evasione, che sono i temi dominanti nel panorama dei settimanali di questa settimana. Ci sono valutazioni più di ordine morale, ne parla appunto in termini di questione morale a proposito di lotta all'evasione Beppe Del Colle nel suo editoriale su Famiglia Cristiana. Scrive appunto Del Colle: questo editoriale è stato scritto nella sostanza e nei principi valutativi della realtà da Benedetto XVI, dal cardinale Angelo Bagnasco e da Giorgio Napolitano. Ciascuno nel proprio ruolo, hanno parlato nei medesimi giorni a Madrid per la giornata mondiale della gioventù e a Rimini per il meeting di comunione e liberazione, alla generazione che dalla crisi economica appare sempre più chiaramente vittima, designata nel futuro, prossimo e lontano. Si tratta di una questione morale nell'ambito di un'economia che sta passando da un'illusoria sistemazione post-ideologica su un vago modello liberista a una mondializzazione in cui una totale assenza di etica delega alla finanza il compito di regolare un sistema che in realtà non conosce altre regole che la tutela di interessi particolari spacciati per fini ultimi della democrazia. E ancora, scrive Del Colle, è una questione morale che in quanto universale tocca i comportamenti di ciascuno di noi e diventa angosciante soprattutto quando condanna quel fenomeno che si chiama evasione fiscale, ma che significa, parlando da cristiani, di rifiuto dell'amore fraterno, della solidarietà, della presa di coscienza dei doveri di tutti verso la comunità in cui si è chiamati a vivere. E appunto, ricordando la giornata mondiale della gioventù che si è appena conclusa a Madrid, con 2 milioni di giovani che hanno ascoltato le parole del Santo Padre, Famiglia Cristiana prende una posizione netta sia contro l'evasione fiscale che contro i provvedimenti adottati dal governo che imporrebbero troppi sacrifici alla famiglia. Se un giornale cattolico si occupa di evasione fiscale, se ne occupa anche un giornale con un'altra tradizione come l'Espresso, che parla però appunto di santa evasione, facendo un po' i conti in tasca alla Chiesa e ai beni ecclesiastici che sono in parte sottratti a tassazione. E in questo senso, diciamo, Stefano Liviadotti fa un po' di valutazioni molto pertinenti in materia. Anni di trattative con la politica, scrive, hanno assicurato alla Chiesa un pacchetto di privilegi che, tra sovvenzioni statali dirette e indirette, quelle garantite attraverso gli enti locali ed esenzioni fiscali, vale 4 miliardi e mezzo l'anno, 500 milioni in più rispetto all'apparato politico. Ma in un altro libro, Pier Giorgio Di Fredi arriva addirittura a una cifra doppia. Una parte consistente di questa ricchissima torta deriva proprio dall'esenzione sull'ICI, un privilegio che una prudentissima analisi dei comuni ha valutato in un mancato gettito fiscale compreso tra i 400 e i 700 milioni di euro l'anno, e per il quale Roma rischia una condanna da parte di Bruxelles. In questo poi articolato approfondimento Liviadotti fa anche un po' di misure catastali e chiarisce che in mancanza dei dati certificati bisogna affidarsi alle valutazioni più o meno spannometriche. Quelle del gruppo Re, religiosi ecclesiastici, da sempre vicino alla gerarchia vaticana nel business del mattone, attribuiscono alla Chiesa il 20-22% dell'intero patrimonio immobiliare italiano, che pare a 4,7 milioni di metri quadri. Se fosse vero, si arriverebbe appunto intorno a 1 miliardo di metri quadri per un valore approssimativo di 1.200 miliardi di euro. E sempre in tema di evasione, l'Espresso poi ci parla di un numero telefonico, forse non tutti gli italiani lo conoscono, è il 117, che serve appunto a denunciare l'evasione fiscale alla Guardia di Finanza, un numero che è stato creato all'epoca del governo Prodi, ma su iniziativa della Guardia di Finanza, e che, se per un po' ha raccolto circa 20.000 telefonate all'anno, ha avuto un boom intorno al 2006 fino a 117.000 quando ci furono degli spot, ma poi è caduto nel dimenticatoio. Eppure, scrive Maurizio Maggi, grazie a questo numero sono state scovate decine di truffe e sono stati pizzicati molti truffatori. Qualche esempio: le scoperte di una discarica abusiva di San Pio delle Camere vicino all'Aquila e di una tipografia che stampava falsi passaporti diplomatici a Milano. Oppure della 78enne nonnina di Padova che affittava 9 appartamenti in nero a immigrati irregolari, occultando il 75% del reddito. Qui a telefonare è stato uno dei vicini di casa. Questo è Chet Baker per i miti del jazz, dell'antologia dei più grandi musicisti jazz che il Sole 24 Ore pubblica ogni settimana, 9,90 euro più il prezzo del quotidiano. Chet Baker appunto è stato uno dei miti del jazz americano, ha avuto come quasi tutti una vita molto complessa e un rapporto difficile con il suo talento, ha avuto problemi di droga molto, molto seri, ma è stato appunto un esponente di grande spicco. Questa che ascoltiamo è Walking, la prima canzone del CD, e c'è una frase che Baker amava ripetere: volevo suonare a orecchio, per me se il sound è giusto, le regole, quelle che sono valide per le persone che non hanno orecchio, che non possiedono alcuna abilità creativa, per me non valgono. Concludendo questo lungo excursus che abbiamo fatto nelle vicende degli evasori, nelle tasche degli evasori, volevo citare questo bellissimo articolo di Michele Serra, la sua rubrica Satira Preventiva sull'Espresso, che ci racconta di questa futuribile, forse chissà, ma non troppo, festa nazionale degli evasori. Scrive Serra: tra le feste politiche del prossimo settembre fa spicco il primo raduno nazionale degli evasori fiscali, che si svolgerà a Monte Carlo, dove la comunità italiana qui residente ha messo a disposizione degli ospiti un centinaio di panfili con il nome Limato. Questo è il programma della manifestazione. La banda nazionale dei piastrellisti esegue Uno su Mille, il celebre inno ispirato alla percentuale di quelli che mettono fattura. Un prestanome del governo porta i saluti di Berlusconi e Bossi e rilascia ai giornalisti presenti una dichiarazione molto lacunosa, inferiore almeno del 70% a quella prevista. Nel menù ufficiale figurano solo maccheroni in bianco e frutta di stagione, nella realtà si tratta di un raffinato banchetto di 20 portate. ancora data per certa la presenza fra gli ospiti di Don Rino, un parroco veneto che è riuscito a far passare per luoghi di culto, dunque detassabili, un tiro a segno e un circuito di go-kart, entrambi intestati alla curia. Molto attesa, Katia Copertoni, una parrucchiera di Latina, che durante un'ispezione della finanza è riuscita a ingoiare la cassa prima che gli agenti riuscissero a impossessarsene. E ancora scrive Michele Serra in Satira Preventiva: a proposito di giochi, si comincia con la tradizionale gara di razzetti di carta fatti con i moduli per la dichiarazione dei redditi, nella quale si contendono il primato le due famose scuole degli orafi vicentini e dei dentisti calabresi. Molto attesi anche il rally dei SUV, specialità nata sui marciapiedi dei centri storici più stretti, e l'elezione di Miss Sgravio, riservato a concorrenti che hanno la quinta di Reggiseno ma denunciano la seconda. Infine, fra i dibattiti si conoscono solo i titoli perché i relatori hanno preferito mantenere l'anonimato. Quando l'umanità era felice, rievocazione della società troglodita prealpina del sesto millennio prima di Cristo, l'ultima nella quale non si pagavano tributi, e ancora fottere il prossimo, una vocazione e una scelta, confronto fra le due grandi correnti etiche dell'evasione. Per finire, religione, di evasori cattolici e la confessione, dichiarare al prete tutti i peccati o solo una parte? Pitagora, Euclide, la nascita del pensiero scientifico, e questa il primo DVD della collana che sarà in edicola da questa settimana a 9,90 euro, che il Sole 24 Ore dedicherà ai miti della scienza. La collana si chiama Beautiful Minds, e la vita, le opere e le scoperte dei più grandi scienziati del passato saranno raccontate da esponenti del pensiero scientifico contemporaneo e da illustri premi Nobel, appunto da Pier Giorgio Di Freddi, Giulio Giorello, Margherita Hack, Umberto Veronesi e tanti altri. E infine, visto che abbiamo parlato di tasse ed evasione, visto che Vanity Fair, in un articolo di Camilla Strada, ci racconta come l'ennesima inchiesta e ricerca abbia dimostrato come più si è bello e più si guadagna, ci chiediamo appunto se la bellezza debba essere in qualche modo anch'essa tassata. E per oggi abbiamo finito. Marco Bellinazzo vi saluta, e ringraziando in regia Mauro De Angeli, vediamo appuntamento a domani mattina.